Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Siamo a Borgo Panigale, periferia ovest di Bologna. Vuoi prostituirti, lo vuoi fare come mestiere? Bene, paghi le tasse. Per me non danno fastidio loro. All'interno di questo spazio la gente non è molto contenta. Perché abbiamo tanti bimbi che vengono qua ed è un brutto esempio. Abbiamo già fatto tante lotte perché non vengono in questo spazio qua, però non riusciamo a mandarle via. Perché non è un bel vedere, fossero tutte delle belle donne potrei anche capire. Non mi sembra che il corpo femminile meriti questo, tutto lì. Comunque i primi a non fare niente sono le istituzioni. Certo, i signori indignati che dicono abbiamo tanti bimbi qua, è un cattivo esempio, hanno perfettamente ragione. Dove vanno mandati i bimbi? Perché siano tranquillamente sicuri dall'avere cattivi esempi e non vedere brutti spettacoli come quelli delle prostitute per strada, dove magari c'è gente che fa sesso in macchina. Pensate ai bambini come rimangono male. Mandateli dall'asilo delle suore. Sì, infatti a Vicenza è accaduto ieri, lo leggo. Le sorine facevano vedere nella bella lavagna interattiva un concertino ai bambini di una scuola elementare e improvvisamente, quando è partito il filmato, era una mega orgia con ammucchiate pantagrueliche. Le sorine sono rimaste male, penso la madre superiore si è messa davanti alla lavagna aprendo il velo e chiudendo, ma i genitori sono un po' arrabbiati. Adesso rimpallarsi la responsabilità è tra le famiglie che avevano fornito la chiavetta USB dove insieme al concertino c'era magari uno spettacolino girato in famiglia, o le suore che magari avevano dei file che propriamente non appartenevano a quello che sono i loro uffici quotidiani. Questo per farvi capire cosa? Che nel nostro paese ancora quanti italiani vadano prostitute non è esattamente importante il numero, anche se noi oscilliamo tra i 9 milioni e 2 milioni e mezzo, che mi sembra assolutamente delle cifre molto ballerine, ma che in realtà fondamentalmente c'è un problema radicale, profondo. Gli italiani ancora non hanno un rapporto sereno, anche se sereno sia possibile averlo, ma comunque leggiadro con la sessualità. Ancora pensano che esistano dei luoghi, delle persone, dei ranghi in cui l'aspetto carnale debba essere bandito. Gli italiani non lo fanno con la moglie, con la fidanzata, con l'amante, pensano che non lo faccia la sorella, che non l'abbia fatto la madre, ma pensano che esistano delle donne modificate geneticamente che sono solo per fare sesso. Questa è un'idea molto radicata, molto profonda, molto spregevole verso il genere femminile. È quello che mi sembra che sia emersa dalla relazione di Mirta Dalprà, che è una giornalista, la responsabile del progetto Vittime del gruppo Avele, in un interessante convegno che sta avvenendo in questi giorni. Ieri c'è stata appunto la sessione in cui ha parlato Mirta Dalprà nel rapporto tra italiani e prostituzione. Mirta Dalprà, buongiorno. Buongiorno a voi. Ho fatto un'apertura legata a un fatto di cronaca, però mi pare che in parte ci siano degli elementi che ho colto come nuovi, innovativi nella sua relazione nel convegno di Torino sulla prostituzione, che vorrei che fosse il punto di approccio. Poi parleremo di numero dei clienti, quanti sono, tipologie. C'è dietro questa idea che in realtà una vera e profonda educazione alla relazione sia l'aspetto più carente? Poi dopo parliamo di come, quando, in che maniera, con quanta soddisfazione gli italiani vadano a prostitute. Ma sì, quello che dice lei, diciamo, è una delle conclusioni di questo momento, diciamo, di confronto, che è stato anche molto ampio e che secondo me, come aspetto positivo, ha messo in evidenza che c'è una grande volontà di riflettere a fondo senza cercare delle semplificazioni che poi lasciano il tempo che trovano, soprattutto in termini di risultati, perché questo è un problema complesso che vede tantissime dimensioni assieme, no? Quelle che avete detto voi, io ricordo anche il traffico degli esseri umani che c'è dietro ai grandi numeri, no? Di questo fenomeno. Ma è vero che dai vostri dati gli italiani preferiscono, il grande boom, diciamo, dell'amore mercenario è stato con l'arrivo delle straniere. La straniera è come se fosse una femmina con un minor potere contrattuale della quale esatto. Si può sì, meglio approfittare per la propria fantasia sessuale. Sì, questo sicuramente ha inciso tantissimo, come ha inciso, e ne abbiamo avuto coscienza proprio in questo confronto, la globalizzazione e il ruolo della rete, perché la rete comunque ha influito e sta influendo tantissimo su questo discorso del commercio e della sessualità. Io tanto se mi permette Mirta, do il numero di telefono 800 24 00 24, perché anche il nostro pubblico può dire la propria. Stiamo parlando della percezione di quella che è una relazione che nelle sue sfaccettature c'è anche l'aspetto della sessualità. La sessualità può avvenire unire attraverso un libero scambio di passione, di desiderio, di affetto, di amore o di voglia semplicemente di scambiarsi delle sensazioni, può avvenire attraverso un rapporto mercenario. Oggi cerchiamo di capire qual è in realtà l'attualità, la fotografia degli italiani nei confronti di questo complesso rapporto. Prego. Allora, innanzitutto emerge che è una questione di sesso e soprattutto di sessualità che è cambiata molto, ripeto, rispetto alla pornografia, perché comunque la rete ha cambiato i modi, ha cambiato anche tanto i numeri, no? Ha cambiato la preparazione a un rapporto anche di scambio e però è anche emerso che è anche molto altro. In questo molto alto, cioè diventa troppo complesso stare al passo con quelle che sono le fantasie indotte attraverso l'ampia possibilità di documentarsi in rete. Ma una parte riguarda le fantasie, ma una parte riguarda anche quello che comunque si cerca, cioè tra l'atto e quello che invece è il desiderio di trovare, c'è molto altro in questo immaginario che si forma e che si alimenta nella ricerca di un rapporto. Vuol dire anche ricerca di accettazione, ricerca di parlare, ricerca di esprimere un potere, anche ricerca di essere quello che si è. Il denaro in questo senso, che è diciamo l'elemento, no, di differenza molto grosso, è quasi una protezione, è un mettersi al riparo, oltre che da un discorso di privacy, anche da un discorso di impegno e anche da un discorso di avere un'altra persona che chiede qualcosa in cambio o che comunque misura quello che tu fai. Allora, in questo senso è vero che è un discorso che rimanda molto alle relazioni e anche alle modalità con cui le persone si approcciano alla sessualità. Noi parlavamo tanto, e credo che questa sia un grande input che ha dato questo seminario, parlavamo e giustamente si è ripreso molto il discorso dell'educazione sessuale / educazione ai rapporti, di cui si parla sempre ma non si fa mai, no? Perché non è spiegando solo, diciamo, da un punto di vista clinica sanno tutti, ragazzi, ecco, a tre però anni non sanno è quello tutti. L'educazione sessuale che tutti questi persone che hanno ragionato su questo hanno in mente una cosa molto diversa e molto più complessa e complicata, che se ci pensiamo, quando si è tentato di farlo nelle scuole, c'è sempre stato qualcuno che ha detto no, ma cosa andate a insegnare i miei figli, oppure gli stessi insegnanti. Quindi insomma, paradosso, le suorine di Vicenza sono all'avanguardia involontariamente. Ma, sicuramente chi lavora poi concretamente sul campo è molto più avanti, no? non è toccato ideologicamente, no? Perché sa che cosa serve. No, quello che io volevo anche dire però è che l'altro aspetto, oltre all'educazione sessuale comunque ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini che stanno crescendo, che vuol dire anche rapporti, rispetto del proprio corpo e del corpo altrui, ovviamente, no? Senza moralismi, perché è un altro aspetto anche importante di come ci siamo approcciati. Abbiamo detto non vogliamo, come non vogliamo per le persone che si prostituiscono o vengono prostituite, così anche per i clienti, un approccio moralistico, giudicante a monte. Poi possiamo aver capito, Mirta Lapra, che in realtà... Sì, prego. Ecco, l'aspetto importante è, allora, questo dell'educazione ai bambini, ma anche oggi abbiamo detto forse è importante parlare o ragionare su un'educazione sessuale agli adulti, perché questa grande, cioè intanto non è venuto fuori il profilo di un cliente tipo, ma di tanti clienti, però i grandi numeri sono di maschi eterosessuali adulti con buona scolarità e di tutte le professioni, per cui il discorso è spostato sui grandi numeri sul mondo adulto. E questo credo che sia un altro degli aspetti molto interessanti su cui riflettere. Soprattutto non c'è una categoria ben precisa, sembra aver capito che qualunque italiano mediamente, anzi ancor più se è accompagnato, è un potenziale cliente di prostituta. No, ecco, allora su questo noi abbiamo ridimensionato, lei giustamente faceva accenno, no, in apertura, sì, a quel dato. Ma come si fa da 9 milioni a arrivare a 2 milioni e mezzo? Sì, ecco, lì è stato corretto questo dato malamente, perché è stato corretto dalla stessa ricerca, cioè mettendo a confronto, no, i vari studi, per cui il dato era l'Università di Bologna, se non sbaglio, che ha fatto questa ricerca. No, era l'Università di Firenze e Parsec. Ecco, però l'importante è che è stato detto, è stato preso un dato sui contatti, sul numero di prestazioni. Ecco, il pericolo di quel dato lì era di fare l'abbinamento, tutti gli uomini maschi, adulti sono clienti. Questo non è veritiero, allora bisogna ragionare su quelli che sono clienti, che sono comunque tantissimi, e che cosa questo tipo di richiesta, a che cosa risponde. Noi abbiamo fatto un elenco guardando i vari studi e sono venute fuori 24 risposte che a questo punto dipingono l'universo mondo maschile, e questo allora è un po', no, interessante nel ragionamento sereno, ecco, tra i Ma se uno volesse su questo fare un dato, diciamo, oggi viene considerato con molta leggerezza il fatto che si possa attribuire alle persone che si vedono per strada, che si sa che sono schiave, che si sa che comunque appartengono a un turpe mercato, con la giustificazione che poi noi diciamo sì, ma guadagnano tanto, poi a loro anche piace, il fatto che esistano delle donne programmate che per professione, per vocazione, per obbligo, mettiamo quello che vogliamo, sono destinate al pagamento sessuale, mentre tutte le altre donne no, le altre donne non ci si pensa nemmeno, perché appartengono alla sacralità delle compagne di vita, delle fidanzate e degli specchiati esempi. Come se una donna normale, fra virgolette, non avesse una sua capacità, un suo diritto, una sua vocazione anche avere un rapporto soddisfacente da un punto di vista fisico. Beh, questo aspetto della richiesta, della fatica di un'accettazione dell'emancipazione femminile è uno dei tanti punti, no, che emergono, così come uno dei punti, diciamo, più nuovi, dei nuovi clienti, sono quelli che vengono definiti clienti del disimpegno, e anche questo deve far pensare, perché comunque queste persone preferiscono un rapporto a pagamento, perché comunque temono, vedono con paura un rapporto che impegna di più, perché comunque una fidanzata, anche un amante, comunque chiede delle cose in cambio. Però ecco, su questo ovviamente bisogna molto ragionare. Un altro aspetto secondo me però importante di questo momento storico è lo spostamento della responsabilità, o comunque dell'attenzione, della condanna, adesso condanna è una brutta parola, comunque dell'attenzione. Quando si parla di prostituzione, sempre solo, come è stato fatto in questi anni, sulla prostituta o prostituita, no? Ecco. E si è spostato anche sul cliente. Allora, fermiamoci un secondo. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando con Mirta Daprà, che è una responsabile del progetto Vittime del gruppo Abele, che ha partecipato a un convegno che è ancora in corso a Torino e che sta riflettendo sul rapporto tra italiani e prostituzione. Abbiamo al telefono Gianfranco, un ascoltatore, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare, cioè, nel dire il mio pensiero, per quale motivo le persone responsabili su questo giudizio del sesso, che è molto delicato, molto importante, cioè non pensano ad aprire le case chiuse, che si risolverebbe dei problemi importantissimi. Lei ci andrebbe se aprissero? Ah, guardi, qui sono nel Veneto, certe persone che hanno la responsabilità stanno già pensando. E per quale motivo? Allora, prima di tutto si risolve il problema di avere delle malattie, perché vengono controllate. Secondo, si paga e si ha uno scontrino che poi venga buttato via. Ma uno può sempre scaricarlo comunque, volendo, se c'è una partita IVA. Siamo da già. Però ecco, faccio per dire, stiamo facendo delle cose che non so per quale motivo certe persone responsabili non vanno su questo argomento. Ma soprattutto non si vedrebbe quel brutto spettacolo per strada con le complimenti. È certo. Quello, anche quel signore che diceva che i bambini a Bologna non riescono a trovare, ma per quale motivo? Ma io mi domando, ma cosa non è? Lei di dov'è esattamente? Dov'è esattamente lei, Gian? Nella zona più bella del mondo, Valpolicella. Valpolicella. Provincia di? Di Verona, la città più bella del mondo. Una città più piena di trans e mignotte la sera per strada, comunque. Non ce ne sono tante. No, abbiamo un sindaco che si chiama Tosi, sì, che lei può che lo nasconde. I veronesi vanno a Vicenza, infatti, dove ce ne stanno in abbondanza. I vicentini vanno a Verona e Padova poi va a metà. Grazie. Mirta Daprà, giornalista, responsabile del progetto Vittime del gruppo Abele. Significativa la telefonata, perché molti pensano, abbiamo fatto molte trasmissioni ultimamente, che il problema sia fare dei grandi recinti abbiamo parlato appunto con sindaci proprio della zona in cui ci parla il signore, che già avrebbero adocchiato degli ex capannoni industriali, vorrebbero riconvertire come grandi casini, come fossero degli outlet, dove la gente può andare tranquillamente al di fuori degli sguardi indiscreti. Sì, lo so, io reputo che questa sia un po' una risposta un po' semplificatoria, perché anche se capisco che a volte, e allora io partirei da qui, in alcuni territori il fenomeno in strada può generare delle problematiche. Allora noi in quei casi lì diciamo chiedete una mano alle associazioni, a chi ci lavora su queste tematiche, e si faranno degli interventi che tengano conto anche delle popolazioni residenti, perché è giusto che sia così. Perché sì, non è piacevole avere il via vai sotto casa, questo bisogna capire. Infatti questo tipo di intervento di mediazione sociale, tenendo conto di vari attori, tra cui anche le popolazioni residenti, è sacrosanto, e quando è stato fatto, secondo me, si è ottenuto un intervento un po' più duraturo nel tempo, perché il risultato di ordinanze l'abbiamo visto, abbiamo lavorato con Cittalia, che insomma è il centro di ricerca dei comuni italiani, hanno visto che il risultato di alcune politiche di un certo tipo hanno portato alla prostituzione al chiuso, per cui non più raggiungibile, non si vede, però è diventata ancora più problematica. Rispetto alle malattie, io colgo la domanda, la riflessione del signore del più bel posto del mondo, è molto piacevole sentire le persone così attaccate, no, alla propria terra, io lo capisco bene. Non è vero che preserverebbero dalle malattie, questo è una cosa che è avvenuta ogni volta che si sono riaperte le case chiuse nei vari paesi, è stato un fallimento questo discorso. E infatti la legge Merlin, che ha chiuso le case di tolleranza, uno dei grandi elementi che le ha fatte chiudere è proprio la diffusione della sifilide. Oggi noi abbiamo le malattie combattono, le infezioni, con una bella prevenzione, e il discorso dei clienti, mi colgo l'occasione per dire che è un dato preoccupante, i clienti pagano 3 volte tanto per avere rapporti non protetti, e poi non si può pensare di decidere che le donne, in questo caso che sono la gran parte, si mettono al chiuso, senza mai pensare cosa dicono le donne e cosa dicono i vari attori che sono in gioco. Fra l'altro attività che avviene già, c'è tutto il problema, la fattispecie dell'online, che è tutta una realtà che non si può oggi uno se dovesse, se io per assurdo mi venisse in mente andare a prostituta, non andrei per strada, aprirei il computer, la sceglierei nel mio quartiere, la guarderei, le telefonerei, me la farei venire a casa, non perderei tempo a muovermi. Ecco, su quello tra l'altro è venuto fuori un aspetto, adesso colgo l'occasione visto che lei l'ha sollevato, rispetto ai minori che sono a volte molto anche inconsapevoli dei pericoli della rete e vendono e comprano loro stessi, no, rapporti sessuali. La cronaca è piena di questi episodi. Ecco, per cui insomma su questo, allora, io credo che per prendere le sollecitazioni che sono state date, tutto si può fare, bisogna però farlo secondo me seriamente, mettendo in fila tutte le implicazioni che ci sono su queste cose. Si possono anche fare delle sperimentazioni, però i paesi che hanno fatto una serie di interventi di un certo tipo, se non l'hanno fatto anche con un ragionamento con tutti gli attori in gioco, hanno cambiato poco dopo la legge, perché è stata fallimentare. Fermiamoci un secondo, scusi. Le due leggi che tengono in Europa e che hanno tenuto per tantissimi anni sono la legge Merlin e la legge svedese, perché ci hanno impiegato 10 anni per arrivare a una legge di quel genere, con tanto dibattito, tanto cambiamento culturale. Che è cambiato anche molto il rapporto tra cliente e prostituta, il tipo di prostituzione, anche il tipo di rischi fisici che si possono avere in un rapporto non protetto. Molto lei parlava di sifilide, parlava di malattie di vecchio stile, oggi ne esistono tante altre, di nuove, di più insidiose, di più nascoste. Non è che facendo fare l'analisi alle signorine, come vediamo nei film un po' retro e un po' nostalgici, si risolve il problema. Velocemente, Fabrizio da New York. Buongiorno, sì. Vive a New York. Vivo a New York, però chiamo da Roma adesso. No, sentivo e devo dire che ci sono tante cose su cui bisogna indignarsi in Italia, ma anche questa è un'ulteriore occasione, perché in America, che è un paese puritano, ormai sono tanti anni, cioè sono già 15 anni, in cui questo argomento è stato trattato e è stato anche affrontato sotto diversi aspetti. E come è risolto? Una battuta che stiamo chiudendo. È stato risolto che praticamente la prostituzione non è una questione legale e naturalmente si può, diciamo, pagano le tasse perché le prostitute... E si raggiungono via internet, come ha scritto lei il suo messaggio. Grazie agli ospiti, a domani.